Seconda lettera di Giovanni. Il presbitero alla eletta signora e ai suoi figli, che io amo nella verità, e non io soltanto, ma anche tutti coloro che hanno conosciuto la verità, per quella verità che dimora in noi e che sarà con noi eternamente. Con noi siano grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, in verità ed amore. Ho provato grande gioia nel vedere dei tuoi figli che camminano nella verità, come ne abbiamo ricevuto comandamento dal Padre. Ed ora, Signora, scrivendoti non già per darti un comandamento nuovo, poiché lo possedevamo già fin dall'inizio, io ti chiedo di amarci gli uni e gli altri. E questo è l'amore, che noi camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento, come l'avete sentito fin dall'inizio, che voi camminiate nell'amore. Poiché molti seduttori si sono introdotti nel mondo, i quali non confessano che Gesù Cristo è venuto nella carne. Questi tali sono il seduttore e l'anticristo. State bene attenti a voi stessi, perché non abbiate a perdere quello che avete operato, ma al contrario ne riceviate la piena ricompensa. Chiunque va al di là e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora in questa dottrina ha il Padre ed il Figlio. Se qualcuno viene da voi e non porta questa dottrina, non ospitatelo in casa, né dategli il saluto, poiché chi gli rivolge il saluto partecipa alle sue opere malvagie. Molte cose avrei da scrivervi, ma non voglio farlo per mezzo di carta ed inchiostro. Spero invece di venire da voi e di parlarvi faccia a faccia, affinché la nostra gioia sia piena. Ti salutano i figli della eletta tua sorella.